Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentrovati a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Allora, si stanno moltiplicando al nostro indirizzo e certamente non solo al nostro le richieste di chiarimento da parte degli ascoltatori sulla famosa moratoria dei mutui che partirà a gennaio. Curiosità legittima alla luce dei dettagli che l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha dato lo scorso 21 ottobre proprio su questa operazione che prevede la possibilità per chi ne farà richiesta di sospendere le rate del mutuo per un periodo massimo di 12 mesi. Ovviamente si tratterà di famiglie cui sarà piuttosto radicalmente cambiata la situazione economica negli ultimi mesi. Entro la fine di questo mese dovrebbero essere disponibili i moduli di richiesta da spedire alle banche, ma la questione è ancora completamente aperta. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire, vale a dire intanto le modalità di recupero delle rate non versate, come si intreccia questa nuova iniziativa di moral suasion, come si dice in gergo, appunto, da parte dell'ABI verso le associate, con tutte quelle iniziative già attivate individualmente dalle banche. E soprattutto la domanda ha una natura di convenienza economica: conviene davvero sospendere adesso che i tassi sono così bassi? 800 24 00 24, numero verde per voi se vorrete chiederci dei chiarimenti rispetto a tutto questo. Ovviamente vi risponderemo per quello che sappiamo. La procedura appunto concreta di operatività della moratoria deve essere definita, ma intanto vale comunque la pena, per accontentare molti di voi, tornare a fare un punto della situazione con il nostro carissimo Maximilian Cellino, Plus 24 del Sole 24 Ore, che su questo ha scritto di nuovo sabato scorso proprio sul quotidiano. Maximilian, ciao, bentornato. Buongiorno a voi e all'ascoltatore. E bentornata anche all'avvocato Maria Stella Anastasi, segretario della Lega Consumatori. Complessivamente la moratoria, se non ricordo male, è stata un'iniziativa che è partita per volontà della Diconsum, ma molte delle associazioni dei consumatori l'hanno subito, immediatamente appoggiata. La vostra è in prima fila. Avvocata Anastasi, bentornata. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Certo, sì, tutte le associazioni, Lega Consumatori, Adiconsum, tutte le associazioni di tutela dei consumatori. Perché? Perché questa è la richiesta degli utenti e delle famiglie che sono le utenti delle nostre associazioni. È una richiesta pressante, è una richiesta che arriva dalle famiglie, e non solo dalle famiglie dei lavoratori dipendenti, ma anche dalle famiglie dei lavoratori autonomi, che noi abbiamo ovviamente un panorama della Regione Lombardia, perché ovviamente la nostra sede nazionale è in Regione Lombardia, ma ovviamente in tutte le sedi delle associazioni, ma la Regione Lombardia in questo momento ha una particolare sofferenza nei confronti delle famiglie che hanno un reddito da lavoro autonomo, e questo reddito lo hanno perduto. È vero, e questa è una situazione estremamente delicata, per cui stamattina cercheremo anche, come dire, nell'attesa che la moratoria sia operativa, cercheremo anche di capire per chi ha necessità immediata di questa sospensione, cosa bisogna fare. Questi sono dei casi, come dire, assolutamente urgenti da supportare, e magari cercheremo di dare un'indicazione anche a questi. Il numero verde, ve l'ho ricordato, ve lo ribadisco ancora, 800 24 00 24, numero per i vostri messaggi, 349 238 6666. La borsa, ieri giornata di exploit per gli stili internazionali, con Wall Street che si è riportata ai massimi dal 2009. Gli effetti sono questi effetti sono determinati dalle trimestrali che sembrano buone. Ieri l'oro ha toccato un nuovo record storico, il dollaro è sceso di nuovo a quota 1,50 sull'euro, e insomma un mix di fattori che ha spinto il mercato azionario. Il petrolio intorno agli $80 al barile di nuovo. Questi i temi di ieri. Per quello che riguarda oggi, le borse stanno consolidando i progressi appunto della seduta di ieri, con Parigi in salita dello 0,11%, Francoforte più 0,32%, Londra più 0,32%, Milano più 0,21%. A Milano bene le banche, Banco Popolare più 3,18%, Intesa San Paolo in attesa dei Conti più 2%, Geox più 1,48%, A2A più 1,43%, mentre c'è questo scivolone dirompente di Prysmian, che perde il 7,5% dopo la notizia che è stata diramata ieri sera che un grande investitore, Goldman Sachs, azionista di riferimento del gruppo con il 31,7% del capitale, ha ceduto con una procedura di collocamento presso investitori istituzionali, una procedura accelerata, si dice così in gergo finanziario, oltre il 14% delle azioni detenute. Potrebbe peraltro anche continuare a scendere nel capitale della società quotata. Questo è l'effetto in borsa, titolo in crollo del 7,83% in questo momento. Seguono a distanza Finmeccanica con un calo dell'1,77%, Impregilo -1,68%, Popolare di Milano -1,67%, calo di 1,5% anche per Pirelli e Cire. L'euro continua a mantenere la soglia di 1,50%. Sul dollaro direi che possiamo lasciare i temi di borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Andiamo appunto alla moratoria sui mutui, come dicevamo, una iniziativa che è stata formalizzata il 21 ottobre scorso da parte dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, un'iniziativa, come dire, invocata moltissimo dalle associazioni dei consumatori che rappresentano evidentemente le necessità delle famiglie, e ovviamente l'iniziativa c'è, adesso bisognerà vedere come si concretizzerà. Parto subito con Maximilian Cellino, perché vedo già che rispetto a quanto l'ABI ci aveva detto in concomitanza con il lancio dell'iniziativa, se non ricordo male, si parte, per quello che riguarda lo stop alle rate, da febbraio. Io avevo capito dall'ABI che sarebbe stata data la possibilità alle famiglie di presentare, non appena la modulistica fosse stata pronta, di presentarla a dicembre per cominciare a saltare la rata da gennaio. Già invece, come dire, la tempistica non è più già esattamente questa, Maximilian. Intanto direi che occorre prudenza, perché stiamo ragionando su delle indicazioni che dovranno arrivare nelle prossime settimane, quindi facciamo dei ragionamenti sui dubbi che dovranno, gioco forza, essere risolti dall'ABI nelle prossime settimane. E il fatto è questo, è che bene che vada, se a fine mese abbiamo pronti i moduli di adesione per le famiglie, le famiglie poi dovranno avere un certo tempo per reperire il materiale, per dimostrare che hanno perduto il lavoro, che sono in cassa integrazione, oppure la scomparsa di un componente del nucleo familiare della famiglia. Tra l'altro, prima si ragionava, e qui apro una piccola parentesi, magari ne parleremo dopo, del lavoro autonomo. Non sarà facile dimostrare che uno ha perso il lavoro autonomo. Non è molto semplice, perché può darsi che uno abbia chiuso la partita IVA, ma chi, lavoratore autonomo, se in questo momento non ha delle commesse, non ha del lavoro, va a chiudere la partita IVA per poi doverla riaprire quando di nuovo deve lavorare? Per cui non sarà facile. Quindi questo il tema intanto della certificazione del proprio stato nuovo reddituale sarà molto semplice per i lavoratori autonomi, mentre invece per i lavoratori dipendenti o in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro è teoricamente più semplice, ma ci vorrà del tempo, bisognerà richiedere, bisognerà raccogliere questa documentazione e portarla alla banca. Dalle indicazioni alla banca si dovrà portare a partire dal 1 gennaio, dal 2 gennaio diciamo 2010, a quel punto le banche dovranno fare le loro ricerche per vedere se la richiesta è fondata, e in ogni caso le rate di gennaio saranno probabilmente state sicuramente già state pagate. Contabilizzate e la rata che non ci dimentichiamo che la rata in genere che matura a gennaio viene pagata il 1 febbraio, per cui il 1 febbraio, se è mensile, se è trimestrale, si andrà ancora dopo, insomma. Facciamo il caso mensile, che è più semplice, quindi la sospensione nella migliore delle ipotesi arriverà dal 1 febbraio, ecco, questo sì. Volevo sentire l'avvocato Maria Stella Anastasi se le associazioni dei consumatori hanno prospettato all'ABI e quindi alle banche queste perplessità che sono state appunto oggetto anche delle considerazioni di adesso di Maximilian Cellino. Ad esempio, un lavoratore autonomo che perdesse lavoro effettivamente, secondo lei, avrebbe complicazioni a dimostrare questa sua nuova condizione professionale, lavorativa e quindi reddituale? Ma sicuramente quello che diceva il dottor Cellino è corretto, le difficoltà ci sono, le associazioni hanno un incontro con ABI, quindi proseguono gli incontri, certo, con ABI da parte delle associazioni, il prossimo incontro è fissato per il giorno 17 novembre, nel quale ovviamente dovremmo avere ulteriori informazioni. Come diceva il dottor Cellino, in realtà ancora stiamo ragionando su ipotesi, perché non è ancora vi precetto già per il 18, quindi vediamo che cosa è successo il 17, in modo di andare avanti passo per passo. Sicuramente questi aspetti sono stati già evidenziati dalle associazioni, e ovviamente immagino ABI ci stia lavorando, perché è innegabile che l'aspetto del lavoro autonomo è molto più complicato dell'altro. Detto questo, il punto è anche, come dire, quanto le banche saranno flessibili. Mi riferisco a questo. Le famiglie sono in difficoltà a pagare i mutui ancora già dal 2008. Eh sì. Ok? Sono in difficoltà dal 2008. Ci sono stati una serie di provvedimenti che in realtà non hanno sortito gli effetti voluti. A un certo punto, fortunatamente, per una serie di ragioni che molti dei suoi ascoltatori conoscono, i tassi dei mutui soprattutto chi aveva i mutui a tasso variabile, si sono abbassati, quindi sicuramente, come voi dicevate, le rate un pochino si sono abbassate. Detto questo, l'abbassamento della rata per ragioni diciamo di tipo legato appunto ai tassi di interesse va bene, ma è ovvio che la famiglia dove uno dei componenti ha perso il posto di lavoro comunque il problema lo sente. Guardi, io tra l'altro mi sono confrontata proprio con un po' di ascoltatori in questi giorni, con molti ci scriviamo ovviamente per il tempo anche che possiamo dedicare loro, perché comprensibilmente non ne abbiamo molto purtroppo, e c'è effettivamente chi per esempio già magari versava una rata come dire assolutamente gestibile e che con la abbassamento dei rati è diventata sicuramente ancora più leggera, ma per chi ha perso il posto di lavoro, ribadisco il concetto di Maria Stella Anastasi, anche risparmiare 200 euro, per carità del cielo, tutto fa brodo, sulla rata del mutuo non conta niente, perché comunque viene a mancare una fetta molto più ampia di entrate e pertanto insomma le difficoltà sono comprensibili. Allora, io direi di sentire subito gli ascoltatori, perché vedo per esempio Nicola da Milano che pone in evidenza tre punti che erano nostra intenzione affrontare. Nicola, ma le faccio fare volentieri a lei la domanda. Benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno, saluto tutti i suoi ospiti, vi ringrazio di avermi chiamato. Grazie. Grazie per il servizio che ci fornite, molto utile davvero. Grazie. Le mie domande sono queste, velocemente. Riguardo la possibilità dei 12 mesi da partire da gennaio per quanto riguarda la sospensione del mutuo, ho sentito che forse c'è un discorso, alcune banche lo fanno, tipo la mia, di 18 mesi, uno. Seconda cosa, gli interessi che vanno a maturarsi per quanto riguarda questa attesa e questa sospensione momentanea del mutuo, sì. In che maniera verranno poi ripagati, certo, restituiti? Esatto, cioè. Esatto, verranno ripagati anche con i tassi che ci saranno al momento che certo. della chiusura. Perché del mutuo. Non è una sospensione che va a finire chissà dove, è una sospensione che noi procrastiniamo, che ripagheremo poi in qualche maniera. I mutui si allungheranno e adesso vedremo per la quota degli interessi invece come verrà riorganizzata in sostanza la restituzione. Terzo punto, Nicola? Terzo punto e ultimo, vi ringrazio tantissimo. Se avete una previsione per quanto riguarda gli interessi sui mutui, se l'Euribor tenderà a salire. Oppure no, vabbè, ringrazio magari. Molto, siete molto gentili. Grazie a lei, Nicola. Allora, forse ci sono già. C'è già il metodo, no, forse 30 secondi con Maria Stella Anastasi riesco a farli. Sì, credo che voi abbiate fatto richiesta per fare una sospensione più lunga rispetto ai 12 mesi, vero? E forse anche per allargare la possibilità di sospensione al credito al consumo, alle altre rate che le famiglie pagano magari per altre forme di prestiti, però su questo ancora non c'è nulla di concreto, mi pare. No, dicevo appunto poco fa, attendiamo questa riunione del 17 per avere ulteriori informazioni da parte di ABI e quindi confrontarci con loro. Però dicevo questo, un punto che per esempio le associazioni anche hanno sollevato e risolleveremo il 17 è questo. La flessibilità delle banche, cioè non vorremmo mai che qualcuno si dovesse sentir dire il 2 gennaio 2010 ma siccome tu hai già smesso di pagare le rate, perché certo se io il lavoro l'ho perso alla fine del 2008, probabilmente nel 2009 non sono riuscito a pagarle molte delle rate, quindi io sono già in sofferenza, ecco, non vorremmo che qualcuno si dovesse sentir dire questo, perché è evidente che se il lavoro è già stato perduto tra la fine del 2008 e il 2009, è evidente che la famiglia ha già qualche rata non pagata. Certo. Quindi il fatto magari di irrigidirsi e dire ma siccome tu hai già delle rate non pagate, forse ecco, vorremmo che questo non accadesse. Quindi diciamo che forse la prima iniziativa concreta che le banche dovrebbero prendere è in qualche maniera sistemare la condizione di chi è già in ritardo e magari far rientrare già in questa moratoria chi non sta pagando, per cui probabilmente questa sarà una sollecitazione che alle banche le associazioni dei consumatori porteranno come dire, confidando anche in un'azione di responsabilità da parte delle banche. Abbiamo visto che insomma in questi anni non è che ce ne abbiano dato spesso grande esempio, però questo è un momento molto delicato e forse bisogna, come dire, l'asse della responsabilità elevarlo un po'. Torniamo sul cosiddetto piano famiglie che ha lanciato l'ABI alla fine di ottobre, l'Associazione delle Banche Italiane, per dare la possibilità alle famiglie in difficoltà economica di sospendere il rimborso delle operazioni di mutuo per almeno 12 mesi. Ovviamente si deve trattare di famiglie all'interno delle quali la condizione economica è cambiata perché si è perso un posto da lavoro dipendente a tempo indeterminato o a termine, perché si è cessata l'attività di lavoro autonomo, perché è soprattutto sopraggiunta la morte di un componente del nucleo familiare percettore del reddito a sostegno della famiglia, perché c'è stato un intervento di sostegno al reddito per la sospensione del lavoro, quindi cassa integrazione. Molti ascoltatori si stanno chiedendo come si concretizzerà tutto questo a partire dall'anno nuovo. Allora noi stamattina ovviamente stiamo ancora navigando nell'ordine delle ipotesi, perché non abbiamo ancora nulla di concreto, se non tutte le intenzioni che sono state pronunciate dall'ABI. Intanto siamo in attesa, per esempio, che le banche siano pronte entro la fine del mese con la modulistica da presentare loro per fare richiesta di sospensione. Nicola da Milano chiedeva: allora, sarà possibile che questa iniziativa venga ad allungarsi non tanto per 12 mesi, almeno per 18, che sarebbe veramente un sospiro di sollievo? C'è questa intenzione, l'ABI deve definirla. E poi Maximilian Cellino chiedeva, l'ascoltatore, e gli interessi che non verranno versati in questi 12 mesi, come verranno ricalcolati, restituiti? Perché comunque, insomma, sicuramente tutto quello che non viene versato, non viene regalato, ma va in coda al mutuo. Allora, permettimi un piccolo passo indietro, sì, sulla questione 12-18 mesi. È molto probabile che questa indicazione dell'ABI segua lo schema dell'accordo in precedenza ABI-Governo, quello di un anno fa, in cui le banche possono praticare anche delle condizioni migliorative rispetto a quanto stabilito dall'ABI. Per cui se alcune banche già praticano la sospensione per 18 mesi, probabilmente la confermeranno. Quanto al discorso degli interessi, è piuttosto complesso e anche questo in via di definizione. Innanzitutto la prima cosa da dire è che si attuerà una traslazione in avanti del piano di ammortamento. Cosa vuol dire? Che se uno ha un mutuo di 20 anni, stoppa le rate per 12 mesi, il mutuo diventa automaticamente di 21 anni. Tutte le quote capitale si portano avanti di un anno. Io l'anno prossimo, se lo sospendo, pagherò le quote capitale che maturano quest'anno. Per gli interessi la situazione è ancora da definire. Ci sono più vie. Se guardiamo quanto stabilito nella moratoria per le imprese, che riguarda anche i mutui, i cui dettagli sono stati definiti un paio di settimane fa, in questo caso durante l'anno di sospensione vanno comunque corrisposti gli interessi maturati, che continuano ovviamente a maturare a seconda del tasso in vigore nell'anno, Euribor più qualcosa o il tasso fisso che avete. Quindi uno non è che in questo caso uno non avrebbe rata zero nel momento in cui sospende, ma una rata composta da soli interessi. Però è chiaro che alcune famiglie avranno proprio bisogno di sospendere completamente, integralmente in pagamento. Allora all'ABI si sta lavorando per spalmare gli interessi maturati, che continuano a maturare nell'anno di sospensione, nei 5 nei 10 anni nei 10 anni successivi. Decisione, stavo pensando che, visto che comunque la questione è ancora aperta, come diceva Maria Stella Anastasia, proprio quella del lavoro autonomo, non vorrei che venisse considerato questa la stregua della piccola e media impresa, che pertanto venga applicata appunto integralmente la moratoria della piccola e media impresa. È molto probabile che ci saranno in piedi le due alternative, perché una persona può anche essere in grado di pagare una rata, certo, ridotta, quindi e avere perché un ulteriore abbattimento davanti. Ma esatto, magari non sospenderla del tutto. Però ecco, la cosa importante, credo che si andrà verso una soluzione del genere, è che questo sia a discrezione del cliente e non della banca. Altra cosa da sottolineare ovviamente è che sugli interessi che maturano in quest'anno di sospensione, nel caso uno li dovesse spalmare in 5-10 anni successivi, troverebbe ad avere una rata superiore rispetto a quella normale nei 5-10 anni successivi, ma non maturerebbero ulteriori interessi, se no si tratterebbe di anatocismo e non sarebbe legale, che sarebbe anche un tema da organizzare per fare un'altra bella puntata. Ce lo chiedono in tanti ascoltatori, ma oggi direi che lo possiamo proprio accantonare, perché è peraltro una questione piuttosto complicata. Stavo pensando se Nicola da Milano ci aveva posto anche le previsioni sui tassi di interesse, ma ce la lasciamo magari questa, Maximilian, per più avanti. Sentiamo Vincenzo da Casa. Vincenzo, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno signora. Niente, io volevo dire che l'ABI fa tutti questi provvedimenti e poi il tetto del 4% sta ancora lì fermo dalla finanziaria di novembre dell'anno scorso. Che banca? Allora, Vincenzo, ci dica che banca, perché qualcuno ha restituito, sono pochi spiccioli purtroppo, però qualcuno ha restituito e purtroppo la minima parte. Anche quando sono pochi spiccioli loro se le prendono, guardi, perché a noi non devono essere restituiti. Ah, guardi, sposa. Anche requisiti. Lo so. Ci può dire la banca sua? Allora, io sto con Cari Parma, dopo aver presentato domanda a giugno, mi sono presentato pochi giorni fa, ha detto ancora che devono espletare. Non so che cosa significa. Cosa espletare? Addirittura le aggiungo che pochi giorni fa ho fatto le fotocopie del contratto di mutuo del notaio con tutti i tassi di ingresso, perché chiedevo tassa variabile, i requisiti, praticamente le ho mandate al garante per le authority. Ho fatto anche addirittura lettera al garante per le authority. Il garante per le authority è l'antitrust adesso. Vincenzo, comunque, tra l'altro questa banca l'abbiamo avuta di recente almeno un paio di volte, non per i mutui, per altri problemi, per cui guardi, se lei ci volesse scrivere, io so che loro sono estremamente disponibili a risolvere tutte le grane con i propri clienti, qualora capitasse che ne abbiano, e sono sicura che mi daranno anche una risposta su questo, per cui cerchiamo di interpellarli per capire perché sono così in ritardo, ma non è certo l'unica, Maximilian. No, non è l'unica, anche 4% veramente ci deve. Non è l'unica, anche se cominciano cominciano a cedere. Le banche si arrabbieranno a sentire questo termine, ma in realtà è quello che sta avvenendo. Molte banche hanno già pagato. Io lo vedo perché le lettere molto arrabbiate continuano ad arrivare, ma sono sempre meno. Continuano ad arrivare già messaggi di persone che dicono: finalmente la mia banca è arrivata. Mm-hmm. Io più o meno ho idea di quali gruppi abbiano pagato e quali no. Cari Parma, adesso ci informeremo. Non abbiamo nessun motivo di dubitare di quello che ci ha detto l'ascoltatore. Sì. Può essere qualche volta, Maximilian, perché noi abbiamo visto anche questo nel corso degli anni, che dipenda da filiale a filiale, che magari all'interno del gruppo l'iniziativa sia già partita, sia già stata formalizzata le filiali, e che poi all'interno delle filiali, fino a che non sia proprio un documento straufficiale, il direttore non si muova? Dipende dalle banche. Alcune sono state più in grado di organizzare centralmente la restituzione, il rimborso degli interessi, e probabilmente è andata un po' meglio. Altri invece mi verrebbe da dire, in balia delle filiali, e questo è successo soprattutto per alcuni grandi gruppi. Quanto al discorso dell'authority, garante, sì, eccetera, beh, eccetera, c'è un altro organismo, l'arbitro bancario, esatto, perché tu ne hai scritto. Noi li abbiamo presentati peraltro a Salvadanaio, li abbiamo portati con la collaborazione di Banca d'Italia, e per tutte le lamentele con i mutui possiamo andare anche a questo organismo. Mi hanno scritto anche delle persone che hanno fatto presente questo problema del 4% all'arbitro bancario finanziario. In realtà bisogna fare prima un ricorso alla banca, esatto, trascorsi 30 giorni, pagare 20 euro all'arbitro bancario finanziario, a volte magari che però si accoglie il ricorso rimborsa esatto. E poi ecco, la cosa interessante è che queste persone mi hanno segnalato che hanno scritto all'arbitro bancario finanziario, l'arbitro bancario finanziario li ha chiamati, quindi già un riscontro non ha avuto. È stato un caso, secondo me è stato un caso, ma due giorni dopo sono arrivati anche i soldi. È stato un caso, lasciatemelo dire. Una però, circostanza comunque fortuita e astrale. Avvocato Anastasi, non mi sono dimenticata di lei, è solo che adesso, come avrà avuto modo di rendersi conto, quando porto Maximilian Cellino a Salvadanaio prendiamo sempre la tangente e abbiamo sempre tante sfaccettature dei problemi che affrontiamo, che ci piace affrontare. Allora, le faccio sentire una domanda di un ascoltatore di Bergamo e poi ridò la parola anche a lei. Yusuf da Bergamo, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Di che nazionalità è Yusuf? Scusa, sono del Burkina Faso. Sì, ci dica tutto. Sì. Ascolta, io e mia moglie abbiamo fatto un mutuo di 30 anni, intestato a noi due. Sì. Praticamente io ho un lavoro fisso, contratto indeterminato, e lei lavora insieme a una cooperativa che le ha dato un contratto a progetto, il Co-Co-Co. Sì. E in teoria questa cooperativa qua li paga quando lavora, quando è a casa, cioè quando c'è lavoro li chiamano, certo, quando non c'è lavoro niente. Lavora quindi progetto. È quasi dal 2008 che lei non lavora più e non prende neanche la paga. E noi, cioè, con quella prima legge che hanno fatto Tremonti Bondo, siamo andati in banca con quel documento lì a dire: guarda, mia moglie è a casa, non lavora, se potete aiutarci a... Purtroppo dipende, se la banca sua avesse fatto richiesta di Tremonti Bondo avrebbe potuto accontentarla, per cui dipende allora, che banca infatti, è. Infatti, mi hanno detto che loro non fanno parte. Infatti. Allora, come ho sentito adesso questa legge che stanno per fare, volevo chiedervi come che mi devo comportare per poter avere questo. Infatti, intanto Yusuf, aspettare ancora qualche settimana, però tenere sotto controllo tutta l'evoluzione della situazione. Eccoci qua, avvocato Anastasi. Allora, il caso del nostro ascoltatore di Bergamo, che ha una moglie che ha un lavoro, un rapporto di lavoro a progetto, per cui chiaramente un reddito estremamente variabile, eppure è contestataria del mutuo di questa famiglia. Anche Daniele da Padova ci chiede per i contratti a progetto come funzionerà. Tutto questo potrebbe essere nell'ambito di quelle cose ancora da disciplinare con chiarezza di cui lei ci parlava all'inizio, no? Proprio, come dire, aspetti che attengono alla massima, speriamo, flessibilità da parte proposte delle banche, che non siano così rigide da solamente, come dire, prendere in considerazione i quattro punti fissati dall'ABI e oltre lì non si va. Oltre a quelle certo. famiglie lì non le accontentiamo. Ma infatti lei ha già dato la risposta al nostro ascoltatore, e io però ne approfitto proprio perché lui ha detto una cosa, ha fatto riferimento ai cosiddetti Tremonti Bond. Non lo dirò mai abbastanza, ma è da oltre un anno, quindi da quando diciamo ci fu questa iniziativa cosiddetta dei Tremonti Bond, che le associazioni di tutela dei consumatori hanno la fila ai loro sportelli e hanno fatto domanda per i loro utenti di poter usufruire di quella sospensione, che però, questo però non fu mai abbastanza chiaramente detto, era legata al fatto che le banche utilizzassero i Tremonti Bond. È passato esattamente un anno e nessuno è riuscito ad ottenere, tranne pochissimi fortunati, le cui banche avevano deciso di aderire ai Tremonti Bond. Sì, ma ce ne sono tre, se non ricordo male. Secondo me le persone che hanno ottenuto la sospensione del mutuo non lo hanno fatto in virtù di questo accordo, avvocata Anastasio, lo hanno fatto solo perché banalmente all'interno delle banche molte sono andate avanti con iniziative individuali ma del tutto scollegate alla questione appunto delle obbligazioni di Tremonti. Non ritiene così, avvocato? L'avvocata Anastasi, ce lo siamo perso, non so che cosa sia successo oggi. Dal punto di vista tecnico sta succedendo di tutto, ci siamo persi una scheda, però Maximilian, mi pare che la questione possa essere, come sì, dire, sì, sì, il questa. Discorso sta esattamente in questi termini. Allora, va ricordato che questa iniziativa dell'ABI, e l'ABI ci tiene a dirlo e ha ragione, è unica in Europa. Non ci sono in altri paesi delle iniziative del genere, come non ci sono iniziative tipo la surroga, e questo è meritorio. Il problema è come verrà applicata e se le norme, le indicazioni date dall'ABI verranno prese proprio in maniera così rigida dalle banche, perché il caso di Yusuf e di sua moglie potrebbe essere uno di quei casi un po' al limite, borderline, che danno il pretesto che alla banca. Magari Yusuf si presenta alla banca e dice: no, tu purtroppo non sei, non rientri in questi parametri, io non te la posso sospendere. Yusuf ha bisogno di sospendere questa rata, ci vuole meno rigidità, più flessibilità, anche se non c'è una legge che te lo dice, tu devi andare incontro al mutatario perché è nel tuo stesso interesse, ecco. L'avvocata Anastasi non so che fine abbia fatto questa mattina, è veramente una cosa abbastanza originale quella che ci è successa al telefono. Comunque, ecco, avvocato. Eccomi qua. Qua, che ne so, i misteri, forse stava dicendo delle cose un po' scomode. No, chissà. È mancata la corrente nella zona dove sono io. Benissimo, benissimo, malissimo, ci spiace. Però in ogni caso, insomma, forse il nocciolo della questione l'avevamo già affrontato. Sì, il tema è che questo, chi ha ottenuto... Non vorremmo che si irrigidissero le banche. Cioè, il caso dell'ascoltatore dice: io il lavoro in realtà ce l'ho, probabilmente lui il capofamiglia, la signora ha un lavoro a progetto, ecco. Se loro sono realmente in difficoltà, trovare una soluzione, modulare una soluzione sulle singole famiglie, sulle difficoltà, perché può darsi che una famiglia non abbia solo il mutuo, magari abbia anche dei contratti di finanziamento e quindi i debiti in qualche modo purtroppo siano più di uno. E il fatto che uno dei due coniugi magari smetta di lavorare o comunque lavori e guadagni molto meno per causa questo tipo di contratti, deve essere preso in considerazione. Ecco, noi chiediamo questo, visto che, ripeto, la vicenda dei Tremonti Bond ha fatto di fatto perdere un anno alle famiglie in difficoltà e che stanno arrancando, e purtroppo qualcuno ha smesso di pagare, noi questo lo sappiamo, molte famiglie hanno smesso di pagare perché non ce la facevano. Allora, no, tra l'altro stavo ripensando anche alle modalità eventuali di rimborso di quanto non si dovrà pagare in quest'anno, perché va bene che come dire, la quota di capitale non versata finirà in coda al mutuo, Maximilian, se ho capito bene, la quota di interessi verrà invece spalmata in 5 o 10 anni, il tema è che quando si riprende a pagare in virtù di questa quota di interesse che finisce subito nella prima rata che si riprende a pagare, non vorrei che poi determinasse di nuovo una situazione di difficoltà, perché la rata, per quanto possa crescere magari marginalmente, perché sicuramente questa piccola quota di interesse che ci va applicata sarà sicuramente contenuta, e però ci ritroviamo con una rata che non riconosciamo, no, rispetto a quella che avevamo abbandonato. Questo anche sarà un aspetto forse da concordare, magari che lo spalmaggio, non so se si dice così, possa venire su un numero più ampio di anni. Tu che cosa sì, ne se dici? Su 10 anni, cosa che costerà un pochino di più alle banche, questo va detto, se fosse su 10 anni... viene spalmato su 120 rate, per cui non dovrebbe essere così costoso. Poi bisogna vedere come saranno le rate nel momento in cui si dovrà ricominciare a pagare il mutuo. E dico, come saranno i tassi di interesse, come chiedeva anche prima Nicola. Guarda, accontentiamolo subito, guarda, che previsioni fanno gli economisti, adesso siamo veramente a raso terra, adesso, e quindi non si può solo che ripartire, quindi avvisiamo tutti poi che non si dica fra un anno, due anni che non l'avevamo detto. L'Euribor a tre mesi gira attorno a 0,70, 0,71, quindi, quello a un mese 0,40, questi sono tassi eccezionalmente bassi, non saranno sempre così. Quello che si riesce a capire in questo momento, fare previsioni è sempre ingrato e molto complicato, è che ci sarà una ripresa da qui a fine anno, probabilmente da qui al 2010, ma sarà una ripresa molto graduale, proprio perché la situazione economica di globale e in Europa in particolare non permetterà alle banche centrali di rialzare i tassi di interesse in maniera così rapida. Proprio quindi, stamattina peraltro dall'Ecofin hanno detto non abbiamo ancora definito nulla sulla cosiddetta exit strategy, per cui ancora ci si sta lavorando ed è tutto molto lento. La BCE, la Banca Centrale Europea, terrà probabilmente i tassi all'1% ancora per gran parte del 2010, forse anche tutto il 2010. Le previsioni dei mercati sugli Euribor prevedono un rialzo sopra l'1%, che ricordiamo è comunque un tasso estremamente basso, 1,5% e 2%, però spalmato nei prossimi anni, fra 2 o 3 anni. Il problema potrebbe avvenire fra 5-6 anni, se si dovesse palesare quelli che molti temono, un periodo di elevata inflazione. Però ci penseremo. Certo, a tempo debito. Non riesco a far intervenire Francesco da Caserta. Francesco, la pongo io la sua domanda all'avvocato Anastasi, così velocizziamo. Vale anche per i morosi questa moratoria? Abbiamo già posto questa questione all'inizio. Siccome nel piano famiglie dell'ABI questo aspetto non è chiaro, avvocato Anastasi, lo porterete il 17 novembre con grande chiarezza il tema dei morosi, di coloro che già non pagano, non possono essere ulteriormente penalizzati, quindi è inutile che le rate non pagate vengano già contemplate magari nei 12 mesi di cui avranno l'opportunità di usufruire. Come porrete la questione di chi già non sta pagando? Ma assolutamente sì, lo porteremo, e soprattutto la richiesta sarà di non escludere coloro che purtroppo in questo ultimo anno, proprio perché o hanno perduto il posto di lavoro per le difficoltà diciamo già indicate nella trasmissione, siano già morosi, quindi non escluderli da questo piano, ma valutare comunque la loro posizione e vedere di rimodulare le loro rate, vedere di trovare comunque una soluzione per questo tipo di clientela che altrimenti rischierebbe seriamente di perdere la casa. Allora vi aspetto il 18 novembre, grazie a Maria Stella Anastasia, Maximilian Cellino, noi torniamo domani, sentite la sigla che ci sta suonando, buona giornata a tutti.